Letture di Radio 24. Tutti sanno cosa sia la coscienza, ma nessuno finora è riuscito ad analizzarne il funzionamento e a distinguerne i vari livelli. Ma ora uno studioso italiano ha inventato un apparecchio in grado di registrare le nostre emozioni. Ciò che il neuropsichiatra italiano Giulio Tononi, da anni professore all'Università del Wisconsin, si prefigge di realizzare può essere riassunto in una sola strana parola: un coscienziometro. Pensiamolo pure come una macchinetta che misura il grado di coscienza in un soggetto umano. 0% è assoluta assenza di ogni coscienza, 100% lo stato di coscienza pieno, quello in cui sono io che adesso sto scrivendo e quello in cui siete voi che adesso state leggendo. Ovviamente tutto l'interesse dell'impresa di Tononi e collaboratori sta nello studio e nella misurazione dei gradi intermedi, per esempio quelli che insorgono nei vari stadi del sonno e del sogno, nell'anestesia parziale o totale, in vari stati patologici vegetativi e negli stati indotti appositamente mediante la cosiddetta stimolazione magnetica transcranica, un apparecchietto simile a un'aureola metallica che manda a comando diversi tipi di impulsi alle regioni superficiali del cervello quando viene appoggiato subito fuori dalla scatola cranica. Attualmente un coscienziometro, nelle sue forme provvisorie, registra delle onde cerebrali in varie parti del cervello e a varie frequenze caratteristiche. Una perdita di coscienza avviene nelle prime fasi del sonno, prima che insorga la fase del sogno, o viene indotta farmacologicamente, somministrando farmaci anestetizzanti, per esempio delle benzodiazepine. Si osserva lo stesso tipo di scompiglio delle connessioni tra i neuroni della corteccia cerebrale, sia nelle prime fasi del sonno, che sotto l'effetto della benzodiazepina midazolam. In ambedue queste situazioni, i soggetti, una volta riportati in stato di normale coscienza, dicono di non ricordare niente e di aver perso la coscienza. Questo collima con i dati registrati quando si inviano impulsi magnetici dall'esterno, mediante la stimolazione magnetica transcranica. Sia nel primo sonno che sotto l'effetto del midazolam, questi impulsi esterni producono reazioni cerebrali solo locali e di breve durata, a differenza di quelle assai più diffuse e sostenute registrate durante la veglia. Tononi usa un termine del gergo filosofico, un termine preso dal latino, i qualia, cioè la sensazione intima, cosciente, di avere, ad esempio, l'esperienza di una luce che si accende. I qualia sono la luminosità della luce, il rossore del rosso, la dolorosità del dolore, la sonorità di un suono e così via. Nessuna macchina, nessun computer, per quanto sofisticati, sentono dentro di noi tali qualità, anche se possono registrare colori o suoni, ma non, appunto, provare dolore. La differenza sta tutta, dice Tononi, nel tipo particolare di complessità che caratterizza gli esseri umani e magari anche, in modo ridotto, altre specie. Il cervelletto, precisa Tononi, ha circa 50 miliardi di neuroni, più dei circa 30 della corteccia cerebrale. La complessità biochimica e l'intrico di contatti neuronali sono del tutto comparabili, ma bloccando il cervelletto si preserva la coscienza, mentre alterando la corteccia no. La chiave è l'enorme numero e i tipi di strati interni diversi tra i quali la corteccia può discriminare, la ricchezza del suo spazio di informazioni e il modo in cui queste sono integrate. Gli chiedo se la sincronizzazione tra gli impulsi nervosi sia, come molti sostengono, la chiave della coscienza. No, controbatte Tononi. È solo un correlato della coscienza, interessante certo, ma non è la chiave di volta. Nelle crisi epilettiche c'è enorme sincronizzazione, addirittura ipersincronizzazione. Ma la coscienza svanisce. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'articolo di Massimo Piattelli Palmarini «La coscienza si può misurare» dal Corriere della Sera del 19 ottobre. Letture di Radio 24. Accanto ai fatti di cronaca che evidenziano un clima di crescente violenza, ci sono episodi di sciacallaggio che sono ancora più difficili da accettare perché testimoniano la totale assenza di quel minimo di pietas che ci si dovrebbe aspettare di fronte alla morte di un essere umano. È come un virus che non conosce anticorpi e sui corpi sfiniti si mette a banchettare, senza uno straccio di disagio, una briciola di rispetto, un rimasuglio di remora morale. È uno spaccato comportamentale che si fa sociale, abitudine, che è l'anticamera del «che ci vuoi fare?», quindi del «niente da dire». Non più quando il callo al cuore indurisce l'emozione e silenzia il dolore. È come un virus, la nuova rapacità che si impossessa delle vite degli altri quando queste barcollano o finiscono al suolo. Come quella dell'operaio Robert Nimtu, colto da infarto all'uscita dal supermercato, siamo a Padova, che si accascia accanto alle borse della spesa e muore mentre quelle se ne vanno, portate via a un moribondo da una mano feroce. O come quella del giovane pordenonese Matteo Perissinotto, vittima di un incidente stradale, soccorso e portato all'ospedale, ma non ci sarà niente da fare per lui, e ritrovato dalla moglie senza la catenina d'oro che lei gli aveva regalato quando lui era solo il fidanzato. Il ricordo più caro portato via da qualche sciacallo, strappato dal collo come solo nelle razzie dei tempi avariati e bui. Storie già accennate che però continuano a replicarsi, a darsi il cambio come in una staffetta dell'abbruttimento, dove a noi resta solo la parte di testimoni sballottati da una all'altra, sempre meno stupiti. Prima storia. P pedala tranquillo per le strade della città. È il giorno del suo compleanno e si sente uno splendido neo-quarantenne alla faccia del piccolo male che l'accompagna da sempre. Ha appena fatto colazione assieme a suo padre e stasera è prevista una piccola festa con gli amici per cena. Una festa che non ci sarà. L'epilessia gli si avventa dentro. La crisi è improvvisa e furente. P ha solo il tempo di buttarsi su una panchina. Dapprima nessuno lo aiuta. Poi una coppia che passa di là chiamerà il 118 e così arriverà l'ambulanza e l'uomo sarà portato in ospedale. Ma in quel dapprima qualcosa accade. Due mani impietose, mentre P rantola mangiandosi l'aria, gli sfilano il telefonino da una tasca, il portamonete dall'altra, dentro c'erano appena 60 centesimi, quindi impugnano il manubrio della sua bici e se ne vanno, come nulla fosse, voltandogli le spalle e il cuore. Seconda storia. Siamo ad Abano stavolta e Franco Barbirato, 33 anni, muore anche lui come Matteo Perissinotto a Pordenone. Uno schianto in moto e non c'è più niente da fare. Alla madre che aveva perso il figlio maggiore allo stesso modo pochi anni prima, non restano che i suoi effetti personali, documenti, portafoglio e cellulare. Solo che di cellulari Franco ne aveva due, un BlackBerry e un Nokia. E la signora Francesca soltanto il primo si è vista riconsegnare. E pensare che tutti i messaggi più cari, quelli che mamma e figlio si erano spediti dopo la tragedia del fratello maggiore, erano sul secondo telefonino. Di certo lo aveva con sé. Pochi minuti prima dell'incidente aveva chiamato con quello un'amica. E allora la madre torna sul luogo dello schianto a cercarlo. Niente. L'apparecchio non si trova. Se non che passa qualche giorno e utilizzando un'altra SIM, il Nokia torna a comunicare. Intercettato però dai carabinieri che hanno ricevuto una denuncia dalla signora. Chi lo usava? La moglie di un dipendente dell'officina di Monselice intervenuta sul luogo dell'incidente. Possibile che neppure la lettura di quegli SMS privati, carichi di dolore, sia servita a fermare uno sciacallaggio crudele, a maledire quel furto indecente? Ma non sono quella storia e quel suo perché a far rivoltare, ribaltando ogni senso comune. È il passaggio d'insieme, al di là di una stessa collocazione geografica, a stordire. Un'area tra le più ricche del paese, come una landa dove si va per strada, iene tra le tragedie altrui, a cibarsi di esistenze ancora calde o sul ciglio di un burrone, accanendosi sui loro affetti, sui loro effetti, le borse della spesa e la catenina, la bicicletta e il telefonino, come fossero carcasse solo da depredare. La rapacità come disvalore aggiunto al troppo poco, al non abbastanza, che si sa di valere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Cesare Fiumi È sempre il giorno dello sciacallo, dal magazine 7 del 21 ottobre. Li chiamano Toy Dog e sono il top in fatto di moda canina. Barboncini, Pinker, Chihuahua dalle dimensioni estremamente maneggevoli e che si portano in giro anche in borsetta. O ben nascosti nei tir che dall'est europeo importano clandestinamente cuccioli destinati ad arricchire il mercato italiano. No, non si comprano sotto banco. Il posto più probabile dove trovarli è un negozio di animali. Dal 2002 al 2007 la Guardia di Finanza ha calcolato che siano stati importati illegalmente in Italia almeno 70.000 cuccioli e il trend è in aumento. Vengono venduti piccolissimi, prima ancora che siano trascorsi 60 giorni dalla nascita nel periodo per lo svezzamento. Così i cani sono più fragili, si ammalano, rischiano di morire. Meglio rivolgersi a un allevatore. Anche qui tenendo ben ritte le antenne. Vuole appiopparvi un cucciolo senza prima avervi fatto il terzo grado? Non vi fornisce i documenti relativi alla madre? Fa prezzi differenti tra cuccioli con e senza pedigree? La cosa è sospetta. La prima certificazione da esigere in ogni caso è quella dell'allevatore. Se è iscritto nel registro allevatori dell'ENCI, l'ente nazionale della cinofilia italiana, avete qualche garanzia in più. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elena Dall'Orso dal numero 24 del mensile IL, Intelligence in Lifestyle.